Sam, la canzone del sole mi annoia, suonare una vita intera il blues di Johnny B. Goode potrebbe portarci a pensare profondamente che la musica è morta, oh no, la musica è morta. Provare le cover tutta la notte come a dannati e poi finire col dire che il suono fa schifo e la voce non va. Manda a cagare le cover e siediti con la chitarra, crea qualche nota, una strofa, due accordi. Schiavo di queste note, ti fa sorridere e ricordare per molte ore, ma poi la chitarra si spegne senza un motivo, forse è finita l'ispirazione, forse hai la voce roca, o forse perché vorresti suonare altre cose che stanno nell'angoletto